America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Today we can definitively say that the Gaddafi regime has come to an end. The last major regime strongholds have fallen. Barack Obama, che dall'annuncio della morte di Muammar Gheddafi, il colonnello libico ucciso ieri in combattimento, non ha ceduto fino all'ultimo. Ci sono alcune incertezze sulle dinamiche che hanno portato alla sua morte, ma comunque è rimasto in Libia, è rimasto al fronte, ha deciso di combattere fino alla fine, ne ha pagate poi le conseguenze. Il presidente Obama ovviamente è soddisfatto, si chiude un'altra missione importante per lui, quella che difende la democrazia che sta sorgendo nei paesi arabi. Sappiamo che sarà comunque un processo e una strada difficile, ma comunque i semi per questa democrazia ci sono in Libia, ci sono in Tunisia, ci sono in Egitto. Un obiettivo strategico degli Stati Uniti è quello di far sì che si affermi il prevalere della democrazia su tutto. Per me questa storia è focalizzato su un momento molto specifico. Eravamo a Brasilia con il presidente Barack Obama in visita ufficiale appunto in Brasile, quando un pomeriggio di sabato, mi ricordo era sabato 19 marzo, nel centro stampa della Casa Bianca, a un certo punto sentiamo una voce fuori campo che ci dice: attenzione, attenzione, sarete collegati fra poco con il Pentagono per degli annunci importanti. Dovete sapere che sono degli annunci top secret, che non sarete autorizzati a comunicare nulla di quello che ascolterete con nessuno, né con vostri amici, familiari, soprattutto con i vostri media. Ebbene, poco dopo l'annuncio dal Pentagono, eravamo collegati attraverso Secured Line delle linee di sicurezza e sentiamo una voce un po' gracchiante dal Pentagono, ci danno esattamente tutti gli obiettivi tattici e strategici di quello che sarebbe stato l'attacco coordinato contro la Libia, che sarebbe partito nella notte. Per me è stato chiaro che per Gheddafi non c'erano che due vie di uscite: o quella di ritirarsi, di lasciare il paese, di cogliere l'opportunità che ha avuto poco dopo, cioè di andare in esilio di qualche parte, di avere un salvacondotto, di essere ospitato da qualche paese che gli aveva offerto rifugio, oppure di restare fino alla fine con il rischio di finire davanti a un tribunale militare, di finire magari impiccato come capitò a Saddam Hussein, oppure, come invece è successo ieri, ucciso in guerra durante un'azione. When our citizens are abused or attacked anywhere in the world on the direct orders of a hostile regime, we will respond so long as I'm in this Oval Office. Despite our repeated warnings, Gaddafi continued his reckless policy of intimidation, his relentless pursuit of terror. He counted on America to be passive. He counted wrong. Facciamo un balzo indietro nel tempo, perché Gheddafi non è soltanto una così spina nel fianco recente degli Stati Uniti, ma Gheddafi è un problema da sempre, un problema da quando nel 69, quando prese il potere, cacciò gli Stati Uniti dalla base militare che avevano in Libia, la più importante base aerea del Mediterraneo, il Willis Field a Mellaha. Dopodiché cominciò a fare un po' il matto, perché diciamolo, Gheddafi non era molto normale in questa sua evidente follia di leader megalomane, convinto che potesse addirittura a un certo punto unire il mondo arabo. Aveva chiesto all'Egitto di unirsi alla Libia, sarebbe stato lui il leader di tutto, fece lo stesso con Tunisia e arrivò naturalmente a una situazione di rottura, per cui il presidente Sadat a un certo punto decise di interrompere le relazioni diplomatiche con la Libia. E allora Gheddafi si buttò al sud contro il Chad, cercò di invadere il Chad che era ricco di risorse naturali, cose che naturalmente disturbavano l'America, ma la disturbavano un po' da lontano. Ma quando abbiamo sentito Ronald Reagan, lo abbiamo sentito perché si riferiva a una cosa molto particolare. È stato il primo attacco sponsorizzato da Gheddafi contro gli Stati Uniti d'America nel 1986. Il 5 aprile del 1986 degli agenti libici fanno esplodere una bomba alla discoteca La Belle a Berlino. Attaccano questa discoteca, era una discoteca frequentata da militari americani, 3 americani morti, 2 marine, 229 feriti. E ecco quello che ha detto, tornando a quello che vi dicevo prima, Ronald Reagan: l'America in realtà non è passiva davanti a situazioni di questo genere. E Reagan dice: ignorare con l'inazione il massacro di civili o soldati americani, che sia in un nightclub o a bordo di un aereo, semplicemente non fa parte delle nostre abitudini. Quando i nostri cittadini sono abusati o vittime di un attacco in qualunque parte del mondo, l'autodifesa non è solo un diritto ma il nostro dovere, lo scopo della missione intrapresa questa notte. Perché il 14 di aprile Ronald Reagan, quindi appena pochi giorni dopo l'attacco, diede l'ok per un attacco aereo sulla Libia con bombardamenti su Tripoli, con il colonnello Gheddafi che, tutti dicono, si spaventò molto di quell'attacco. L'altro attacco di Gheddafi contro l'America nel 1988, quando era ancora presidente agli ultimi anni della presidenza di Ronald Reagan, e fu l'attacco nei cieli di Lockerbie contro il volo Pan Am 103. Fu una cosa, devo dire, devastante per molti. Avevo degli amici che stavano rientrando dall'Inghilterra per passare il Natale a New York. L'attacco fu il 21 dicembre, pensate, dell'88, appunto pochi giorni prima del Natale. Fu davvero un attacco che sconvolse tutti. Dunque, questo Gheddafi, insomma, ha disturbato un po' tutti i presidenti americani, e le parole che abbiamo sentito prima da parte di Barack Obama sono delle parole che in qualche modo chiudono un capitolo che riguarda l'America da 40 anni e soprattutto che dà un messaggio: i dittatori passano, finiscono male. La democrazia americana, nonostante ci sono stati vari presidenti da quando Gheddafi è andato al potere ad oggi, è la democrazia che prevale. Nella continuità del tempo l'America ha dato una prova di forza, ha dimostrato a coloro che pensano di poter prevalere contro la democrazia, che pensano che la democrazia sia facile, ha confermato un messaggio sia per coloro che vogliono sopprimere la rivolta araba, e questo vale per la Siria, per coloro che pensano di poter così procedere impunemente con i loro progetti di armarsi dal punto di vista nucleare, e qui parliamo dell'Iran, per coloro in Afghanistan, in Pakistan, nel Golfo, che pensano di poter continuare col terrorismo anche dopo la morte di Osama Bin Laden. Ecco, il messaggio è chiaro: gli Stati Uniti hanno la pazienza di aspettare, perché sanno che alla fine in qualche modo riescono a prevalere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24America, scriveteci su Facebook, andate sul sito del Sole 24 Ore, dove oggi abbiamo pubblicato un libro elettronico su Gheddafi, e quindi è disponibile direttamente sul nostro sito. Ed eccoci alla canzone del giorno. Torna alla mente un'atmosfera molto anni 60, musica degli anni 60. Dunque vi propongo intanto una canzone che allora impazzava in quegli anni, fra il 67 e il 68, poco prima dell'avvento di Gheddafi, quando il mondo era, devo dire, forse più sereno, di Paul Mauriat, Love is Blue. Gone, gone, the love we knew. Blue is my world since I'm without. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.